Capitolo 19. Anversa, 14 maggio 1538. Fui Gert dal Pozzo. Mattis si divertiva a usare quel nome strambo, ma gli piaceva anche pensare che il nostro plateale incontro non fosse stato frutto del caos. Del resto per lui niente lo era mai. Tutto aveva un senso nella visione di Dio, un significato che andava oltre la semplice apparenza e parlava agli uomini, a noi eletti. Perché questo pensava che fossero i battisti, eletti del Signore, i prescelti. C'era un'impresa da portare a compimento, grandiosa, finale. Il mio Giovanni di Harlem conosceva Hoffman, era stato battezzato da lui in persona e ne aveva letto le profezie. Il giorno era vicino, giorno del riscatto e della vendetta, ma capii subito che quel fornaio aveva fatto una scelta diversa dal vecchio Melchior. Lui voleva combattere quella battaglia e come aspettava soltanto il segnale del suo Dio per dichiarare guerra agli empi e ai servi dell'iniquità. Aveva un piano, radunare tutti i battisti e portarli a disertare il mondo, quel mondo di schiavitù e prostituzione a cui i potenti volevano condannarli in eterno. Sì, ma come riconoscere i prescelti? Mattis non si stancava mai di ripetere che Cristo aveva scelto dei poveri pescatori come seguaci apostoli, sputando sui mercanti del Tempio, perché di questo si trattava, il lucro, il maledetto lucro dei commercianti olandesi. Gente del genere avrebbe scelto quale fede professare in base al proprio interesse, e questo la rendeva un nemico temibile. Più la fede si legava a riti e dogmi indiscutibili, più quelli ci si sarebbero attaccati. In fondo, l'unico motivo per cui non simpatizzavano per la Chiesa di Roma era che il suo maggior paladino, l'imperatore Carlo, li vessava di tasse e voleva spadroneggiare sui Paesi Bassi come un tiranno, intralciando i loro affari. Poco importava che tanti ricchi mercanti fossero in buona fede. La buona fede, diceva sovente il mio fornaio di Harlem, non basta, occorre la verità. Se bastasse la buona fede, non servirebbe la redenzione. La buona fede non cancella gli errori. Molti giudei in buona fede hanno gridato il crucifige. La buona fede è un'idea dell'anticristo. Ma la cosa ancora più sorprendente era il modo in cui Mattis aveva smascherato l'ipocrisia dei preti e dei dottori che ci avevano servito la Bibbia dai pulpiti e dalle cattedre. Quella miserabile teologia della dirittura morale e della solita onestà, spesso e volentieri conferita solo dal grado, dall'autorità. Il Vangelo, invece, elegge i disonesti, si rivolge alle prostitute e alle noni, non alle prostitute pentite, ma alle puttane così come sono, ai malviventi, alle sentina della terra. Anche l'elogio dell'onestà e della morale erano per lui la religione raccontataci dall'anticristo. Ecco perché era tra la gente comune, gli artigiani, i pezzenti e la feccia dei vicoli, che avremmo trovato gli eletti, tra coloro che subivano più di tutti gli altri e che non avevano nulla da perdere, se non la loro condizione di reietti dal mondo. Lì, la scintilla della fede in Cristo e del suo ritorno imminente poteva sopravvivere, perché più vicine alla sua scelta di vita erano le condizioni di quella gente. Cristo aveva scelto i diseredati, le puttane e le noni? Ebbene, là avremmo reclutato i capitani per la battaglia. Com'era? Voglio dire, che razza di tipo era Jan Mattis? La domanda di Eloy scende lenta, come la sera, alla fine di questa giornata dedicata all'orto e al sorriso di Kathleen. Era il pazzo più determinato che avessi mai incontrato. Ma questo prima che andassimo a Münster. Era determinato e forte abbastanza per mangiarsi Hoffman e il suo rifiuto della violenza. Se il vecchio Melchior era Elia, allora lui sarebbe stato Enoch, il secondo testimone dei passi dell'Apocalisse. Ebbi un saggio di quella forza quando un certo Polderman, uno zelandese di Middelburg, disse di essere lui Enoch. Mattis salì in piedi su un tavolo e fulminò tutti i confratelli lì riuniti con una sfilza di maledizioni. Chiunque non l'avesse riconosciuto come il vero Enoch sarebbe bruciato all'inferno per l'eternità. Dopodiché rimase zitto per 2 giorni interi. Le sue parole erano state talmente convincenti che alcuni di noi si chiusero in una stanza senza cibo né acqua, implorando la misericordia di Dio. Una prova di forza, di oratoria e determinazione. La vinse. Forse a lui ancora non era chiaro, ma io sapevo che Jan Mattis era già il maggior concorrente di Hoffman, e con qualcosa in più, la capacità di parlare alla rabbia degli umili. Sentivo che se avessi imparato a guidare quella rabbia, sarebbe diventato davvero il capitano di Dio, in grado di mettere a rovescio il mondo e trasformare gli ultimi nei primi, di dare uno scossone forte e forse anche definitivo, alle grasse province del nord. Era giunto ad Amsterdam con una donna, di nome Divara, una creatura splendida, che custodiva gelosamente al riparo dagli sguardi di tutti. Dicevano che al suo paese fosse sposato con una donna anziana e che l'avesse abbandonata per scappare con questa giovanissima ragazza, figlia di un birraio di Harlem. Anche Nock aveva quindi un punto debole, lo stesso della maggior parte degli uomini, a metà strada tra l'uccello e il cuore. Quella donna mi ha sempre spaventato, anche prima di essere regina, profetessa, gran puttana del re degli Anabattisti. Aveva qualcosa di terrificante nello sguardo. L'innocenza. L'innocenza? Sì, quella che ti può portare a essere e fare qualsiasi cosa, a commettere il crimine più efferato e gratuito, come se fosse l'azione più insulsa del mondo. Era una femmina che non avrebbe mai pianto, che niente avrebbe mai potuto sconvolgere. Una ragazzina ignorante e ancora inconsapevole della sua carne bianca, e per questo ancor più temibile nel momento in cui avesse capito. Ma solo più tardi avrà imparato a temere davvero quella donna. In quei primi mesi del 32 avevamo ben altro a cui pensare. Innanzitutto, il fatto che la predicazione clandestina di Mattis, quel nostro strano reclutamento, era entrata in collisione con lo Still Stand proclamato da Hoffman. In quei giorni c'era giunta voce che presto l'Elia tedesco sarebbe venuto in Olanda per visitare la nostra comunità, e Mattis sapeva di doversi imporre sul maestro se volevamo che i confratelli si svegliassero e si unissero a noi. Fu uno scontro all'ultimo sangue. Hoffman, dalla sua, aveva l'autorità del passato da predicatore, ma Jan di Harlem aveva il fuoco.